reazione di trasferimento di fase, con tantissima acqua, pochissimo solvente, un catalizzatore in quantità catalitica, condizioni estremamente facili, non c'è bisogno di purificare i solventi perché c'è l'acqua dentro, c'è l'aria, le reazioni sono velocissime, sostanzialmente manco si scalda perché si risparmia anche quel parametro lì, l'unica cosa è, beh, agitiamo un po' la soluzione, perché le cose devono essere agitate, perché se no la fase acquosa e la fase organica non vengono in contatto tra di loro e quindi le reazioni diventerebbero estremamente lente. Alcune reazioni che ancora dobbiamo vedere, ma che però ci danno lo spunto per parlare anche di un'altra reattività, sono le reazioni di sostituzione nucleofila all'anello aromatico. Allora, noi sappiamo che l'anello aromatico, per esempio l'orto o il paracloro nitrobenzene, subiscono reazioni di sostituzione nucleofila. Perché? Perché il gruppo nitro, come c'è scritto sui libri, il gruppo nitro nucleofilo agisce in qualche modo per dare un composto, un intermedio, uno ione di questo tipo, cloro nucleofilo, che ha delle formule di risonanza, ovviamente. Ovviamente vi ricordo che scrivo quella importante di formula di risonanza, quella che ha più peso, quella che ha la carica negativa qui, Cl nucleofilo, perché ovviamente in questo contesto esiste la possibilità di localizzare la carica negativa sul nitrogruppo, che è il gruppo elettronattrattore che in posizione o orto o para attiva la sostituzione nucleofila, e alla fine io posso, con un altro equilibrio, ributtare fuori il mio buon gruppo uscente, in questo caso l'algenuro, e scrivere la mia reazione finale, il mio prodotto finale. Ho messo un nucleofilo al posto del cloro sull'anello aromatico. Questo è uno dei possibili modi per funzionalizzare un anello aromatico con una sostituzione nucleofila. Non è il solo. Aperta e chiusa parentesi, organica 1. Bene, questa reazione noi la possiamo fare in trasferimento di fase. Perché? Perché noi prendiamo un Becher, ci mettiamo dentro le due fasi, la fase organica, la fase acquosa, ci mettiamo il trietilbenzil ammonio bromuro, ci mettiamo l'OH- e qui ovviamente, che ne so, il malonato di etile, CH2COOR. Se abbiamo paura che la reazione sia lenta e che in queste condizioni un poco di gruppo carboetossi, cioè COR, si idrolizzi, noi useremo un carbo terziarbutossi, cioè un estere dell'acido malonico fatto con l'alcol terziarbutilico, sostanzialmente. In questo contesto, quello che avviene, che io mi aspetto che avvenga, è la formazione di questo anione. Questo anione è il controione del sale di ammonio, trietilbenzil ammonio. Questo trietilbenzil ammonio porta con sé il malonato in fase catalitica, in soluzione organica. In soluzione organica, questo composto, è vero che si può fare reagire con RX per fare ovviamente la classica malonica, e cioè COOR, CHR, COOR, ma noi lo possiamo fare reagire anche con proprio questo aggeggio, che è il paranitroclorobenzene, per ottenere, senza ombra di dubbio, un NO2 CaCl2. C-O-R-C-O-R. Oh, questa è una bella reazione, perché noi siamo riusciti a mettere sul anello aromatico, senza passare attraverso le reazioni di Friedel-Crafts, che prevedono l'uso dell'acido di Lewis come AlCl3, che poi va smaltito a livello industriale, l'uso di solventi anidri come il benzene, l'uso di tutti i reattivi anidri e distillati, perché sennò la AlCl3, che è il catalizzatore, basta una goccia d'acqua, si autodistrugge e quindi è finito. E soprattutto, guarda quanto AlCl3 ci vorrebbe per fare un'ipotetica reazione di questo tipo con il 2-cloro malonato di etile. Se il 2-cloro malonato di etile fosse legato alla AlCl3 per fare il carbocatione che poi reagisce col benzene per attaccare questo carbocatione qui sopra, sarebbe un macello, perché di AlCl3 mi ce ne vuole una tonnellata, perché la AlCl3 diventa stechiometrico, doppiamente stechiometrico per la presenza dei gruppi carboetossi, e in più ce ne devo aggiungere un po' per fare la reazione. Inoltre il carbocatione del malonato non è che si forma bene, perché in quella posizione, cioè sul metilene del malonato dietilico, si forma bene una carica negativa, non una carica positiva, per la presenza di due gruppi COR, che sono electro withdrawing groups, cioè EVG, come c'è scritto sui gruppi, sui libri di chimica organica. In questo contesto ti hai fatto la reazione in 5 minuti e quello che si scarica nell'ambiente è il cloro di sodio, al limite, perché se il malonato te l'hai fatto o il cloruro di tetilbenzilammonio bromuro, quindi alla fine hai lo stesso prodotto di partenza, che è il sale d'ammonio quaternario. Questa sì che è una bella reazione. È evidente che in queste condizioni di reazione, ora io l'ho fatta complicata mettendoci il malonato, ma posso metterci qualsiasi altro anione che posso costruire in questo identico modo. Ci ho messo il malonato per mostrare, perché è un po' la cosa più difficile, come esso possa resistere anche alle condizioni forti, basiche e acquose. Ci avrei potuto mettere il dinitrile, ci avrei potuto mettere un semplice nitrile con il tetilbenzilammoniobromuro in OH-, il nitrile RCH2CN immediatamente diventa RCH-C(N). In contrapposizione c'è il suo sale d'ammonio quaternario, che porta tutto in soluzione organica di CHCl3. In questo contesto, questo composto va a finire sul cloro, sul bromo, sullo iodio, sul fluoro, su quel alogenuro dichiarato buon gruppo uscente, che io posso utilizzare. Quindi posso mandare via anche un fenolo. Se trasformo in fenolo intosilato, ora però, detta questa cosa, e compreso che io posso mettere su questo anello aromatico delle cose, e se voglio l'NO2 che mi serviva da gruppo attivatore, lo tengo, se no lo trasformo in altre cose, attraverso la sua riduzione con, che ne so, zinco e acido clorico, ferro e acido cloridrico, zinco e acido cloridrico, idrogeno e palladio, bisogna vedere che cosa ho messo sull'anello aromatico con questa reazione e che non mi influisca il processo di riduzione sul composto, sul gruppo che ho appena introdotto. Bene, stagno cloruro, questi sono i reagenti che si utilizzano normalmente. No? L'SNCl2 si ossida a SNCl4, è un ossidante meraviglioso per l'NO2. Sono i riducenti che di solito si usano nell'industria, ferro e acido cloridrico, che è la cosa che costa meno. Oppure lo posso, una volta che ho ottenuto l'NH2 al posto dell'NO2 di partenza, l'NH2 con le reazioni dei sali di azonio le trasformo in un sacco di cose, quindi è un'ipotesi di lavoro ovviamente, oppure li tolgo, perché l'NH2 attraverso i sali di azonio, trattato sali di azonio con H3 più 2, se ne va, benissimo, attraverso una reazione che è una reazione detta, definita da alcuni, una Azza-Wittig. Non entro sul meccanismo di reazione, perché è una cosa, non è complessa, ma i libri tendono a dire ma sulla reazione di Sandmeyer si sa poco, qua, là, su e giù, invece non è vero, insomma, le idee sono abbastanza chiare anche sulla reazione di Sandmeyer, però siccome pare sia da prendersi in considerazione delle specie radical-cationiche, facciamo finta che non si possa comprendere bene il meccanismo di reazione, ma secondo me a questo punto, nel 2017, con poche cognizioni in più di chimica, una bella meccanismo di reazione si può fare, si può scrivere. Ma non è compito di questo corso qua, è compito di dire ho appiccicato un pezzo sul benzene in acqua. Ecco, questa è la cosa che ci interessava di più, sostanzialmente usando l'acqua. Di cloroformio ce l'ho messo ben poco. E qui però io ho bisogno, estremo bisogno, di aprire una parentesi. La parentesi è legata alla sostituzione nucleofila. Una parentesi l'avevamo già di questo tipo vista quando avevamo parlato delle sostituzioni elettrofile sul benzene e avevamo parlato della reversibilità. Alcune reazioni erano reversibili, altre, reazioni di Friedel e Kraft, non sono reversibili. E avevamo notato come la reversibilità era legata alla scrittura di un intermedio carbocationico, intermedio di Wieland, si chiama così, che non era planare. Bueno. E nella nucleofila? Intermedio di Meissner, come diceva la Menicagli, per chi ha fatto il corso di organica 2 con la Menicagli. Anche l'intermedio di Meissner non è planare. Beh, perché c'è una cosa da dire, è una cosa che è scritta su rigole. Nella reazione di sostituzione nucleofila, aromatica, catalizzata da gruppi elettron attrattori come il nitrogruppo in posizione orto, in posizione para, si scopre che il miglior gruppo uscente è il fluoro, poi c'è il cloro, poi c'è il bromo e poi c'è lo iodio, cioè al contrario della normale sostituzione nucleofila alifatica, agli alogenuri alchilici. Come mai? Sugli alogenuri alchilici, Rx più nucleofilo dà R nucleofilo più X meno. Quindi, sostanzialmente, siccome il buon gruppo uscente lo è se è una base debole, perché quando un gruppo esce, esce come base, quando entra, entra come nucleofilo. Guarda queste frasi che sono lapidarie. Hanno i suoi motivi di essere queste frasi qui, eh? Entri come nucleofilo perché il tuo doppietto di elettroni è nudo e può entrare nell'orbitale di antilegame vuoto che butterà poi fuori il nucleofugo X. Questo è l'orbitale vuoto di antilegame. Il nucleofilo mette i suoi elettroni qui dentro. Dalla parte opposta del gruppo uscente, se questa è una SN2, questo si stacca e se ne va. Funziona così. Beh, se questo X è iodio, questo orbitalone è gigantesco. Quindi lo iodio esce bene, il che vuol dire che I- è una base debole, il che vuol dire che l'acido iodidrico è un acido forte. Tutto dipende solo dalla grandezza degli orbitali. Oh, porca puttana, e allora come mai sul fluoro esce meglio il fluoro, sull'anello aromatico esce meglio il fluoro? Tutto al contrario, c'è qualcosa che non torna. Tant'è vero che in biochimica, per qualcuno di voi che fosse interessato alla biochimica, esiste una cosa che si chiama reattivo di Sanger, fluoro, benzene, NO2, cioè 2, 4 di nitro fluoro benzene, detto dagli amici reattivo di Sanger. Il reattivo di Sanger reagisce con un amminoacido di una catena amminoacidica, NH2R, a temperatura ambiente e butta fuori il fluoro. Perché il reattivo di Sanger usa il fluoro? Perché la reazione avviene a temperatura ambiente, cioè la più facile di tutte, quando esce l'F-, che è una base fortissima? Quindi l'acido fluoridrico è un acido debole, perché deve tornare tutto, ovviamente. Sì, è vero, ci sono due nitrogruppi. Due nitrogruppi in posizione perfetta, uno in orto e uno in para, per cui la carica negativa dell'intermedio di Meissenheimer va a finire su tutti e due i nitrogruppi scrivendo le formule di limiti di risonanza. Quindi ho formule di limiti di risonanza ad alto valore aggiunto che stabilizzano molto l'intermedio di reazione. Ma che meraviglia! Già! Si capisce anche come mai questo reagente è il reagente base di tutti quei reattivi in chimica organica che hanno sti due nitrogruppi in questa posizione. Che ne so, la 2,4 di nitrofenilidrazina, come credete che venga fatta? Ma perché la 2,4 di nitrofenilidrazina? Perché si fa da questo signore. Allora questo signore qui ma mostra una capacità di uscita del fluoro che è elevatissima. Perché nella sostituzione nucleofila il fluoro esce meglio dello iodio? Quando dovrebbe essere il contrario? Ecco, questo è il nostro problema. E il nostro problema è questo qui, e noi lo scriviamo qui. Perché nella reazione l'intermedio che noi scriviamo è fatto così, grosso modo, carica negativa. Questo ha un equilibrio e ovviamente carica negativa sempre qua, fluoro nucleofilo. Si capisce perfettamente che questo orbitale negativo, per stabilizzarsi, deve sovrapporsi a un orbitale di antilegame vuoto, questo. In questo composto 1, quando il fluoro è ad asta di bandiera, la carica negativa in posizione 8 al carbonio, che è legato al fluoro, entra nell'orbitale di antilegame carbonio-fluoro. Nella seconda formula 2, ovviamente è il legame carbonio-nucleofilo, che io non so che cos'è, ad essere vuoto e a stabilizzare questo signore. Chi stabilizza di più? Il fluoro. Perché? Perché il fluoro è l'elemento più elettronegativo della tabella periodica degli elementi, cioè lui ciuccerebbe gli elettroni alla sua mamma. E quindi, quando si mette così, ad asta di bandiera, lui è contento perché anche negli orbitali di antilegame riuscirà a mettere degli elettroni. È contento. Non solo, ma il fluoro è anche l'elemento più piccolo che c'è, perché il cloro, il bromo e lo iodio come gruppi uscenti sono più grossi. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tra questi signori, il signor 1 e il signor 2, il più stabile è il signor 1. Il signor 1, quando questi elettroni vengono messi qui dentro, reagisce buttando fuori il fluoro, perché la geometria degli orbitali è quella che ti dice come vanno le reazioni. Questo è un altro esempio dell'effetto anomerico. È la stessa cosa che attiva o disattiva gli acetali e gli emiacetali quando ne abbiamo parlato. Chi si porrà più facilmente ad asta di bandiera tra il fluoro, il cloro, il bromo, lo iodio? Il fluoro. Perché? Perché è più piccolo di tutti. 1. Perché? Perché è il più elettronegativo di tutti e quindi ha un effetto anumerico esaltatissimo, se così si può dire. Questo è il motivo fondamentale del perché nella sostituzione nucleofila aromatica l'alogeno fluoro esce meglio del cloro, meglio del bromo e meglio dello iodio, al contrario di tutto quello che si poteva prevedere sulla base della reattività della serie alifatica. Non solo. Se voi andate a studiare ancora più approfonditamente la cinetica di uscita dell'alogeno su benzeni sostituiti da gruppi elettronattrattori, a secondo che essi siano il nitrogruppo, il ciano, il quello che vi pare, ci sono a volte delle stranezze. Cioè, non è vero che è sempre fluoro, cloro, bromo, iodio il trend. A volte è fluoro, bromo, cloro, iodio. Il fatto è legato alla seguente situazione. Quando io ci metto qui un gruppo X, questo gruppo X altera in qualche modo, è una perturbazione, direbbero i chimici fisici teorici, della nuvola aromatica. Il gruppo X ingrandisce o diminuisce questo orbitale che tiene la carica negativa sull'anello aromatico e la rende più o meno like softness alla cosa che deve uscire. Cioè, attraverso una ipotesi di modulazione della grandezza di questo orbitale, io potrei far uscire meglio il bromo, meglio il cloro o meglio lo iodio, perché la sovrapposizione di questa orbitale che tiene la carica negativa con l'orbitale di antilegame carbonio alogeno è stata migliorata. Beh, questa è una cosa importante che il chimico organico, quello che si interessa di meccanismi di reazione, deve sapere. Perché a volte tu pensi, no, il fluoro non lo voglio usare perché, e invece è quello che devi utilizzare perché in queste reazioni è quello che ti riuscirà meglio. Ecco, questo è fondamentale. Capite bene come possa essere importante introdurre un atomo di fluoro sull'anello aromatico. Non tanto perché ce lo tengo, ma perché mi servirà poi per poter essere facilmente sostituito da un gruppo che magari non sono in grado di far entrare. Questi sono gli effetti stereoelettronici. Sono stati studiati nel 1952. Perché non ci sono sui libri di chimica organica moderni? A meno che non si tratti in questo caso del March, che è un testo abbastanza antico che risale alla metà degli anni Ottanta, in cui qualcosetta si vede di questo tipo qua. Però, studiando queste reazioni, ora abbiamo capito com'è la vera reazione di Friedel-Crafts e com'è la vera reazione di sostituzione nucleofila. Comprendete anche un'altra cosa, che va bene, ci abbiamo messo i benzeni, ma io ci posso mettere la piridina, perché tutti quelli che hanno fatto un po' di chimica organica 2 un po' seria sanno che la piridina mima il nitrobenzene. Quindi, se io ho una piridina fatta così, faccio le stesse identiche reazioni e che posso quindi fare in trasferimento di fase e ottenere sia in posizione orto che in posizione para, dove c'è cioè l'alogeno che può uscire bene per ovvie ragioni, e cioè le ovvie ragioni sono quando scrivo le formule limiti di risonanza, scriviamola per un istante, le formule limiti di risonanza mi permettono di mandare la carica negativa almeno in una formula sull'azoto, e quindi come io nel cloro nitrobenzene riuscivo a mandare la carica negativa sul nitrogruppo, sulla cloropiridina riesco a mandare la carica negativa nell'intermedio di Wieland sull'azoto, che siccome è un gruppo elettronattrattore, un elemento elettronattrattore, se la tiene bene questa carica negativa. Quindi la formula limite di risonanza assume una stabilità notevole. Guarda come l'ho detto bene. Ho scritto poco e ho parlato tanto. No, dovrebbe essere così il chimico organico. A volte facciamo degli esempi, soprattutto a livello di organica 1, siccome io sono anche abbastanza sadico, normalmente a un certo punto a lezione, per un istante, senza dire niente a nessuno, cambio il linguaggio e comincio a parlare il chimichese per 70-80 secondi. Poi mi giro e vedo la gente che ha allargato la midriasi della pupilla perché non ha capito niente di quello che ho detto. No? Ecco, allora però mi soffermo un attimo e ti faccio capire. Guarda come si deve usare il linguaggio chimico, no? Invece di dire il gruppo estereo, di il gruppo carbetossi, che così metà delle persone non capisce neanche di cosa stiamo parlando. È una banalità, eh? Bene, però ecco, serve solo per far capire qual è il cioè, che hai dei limiti che devi in qualche modo riuscire a superare. Che meraviglia. Allora, ricordiamocela, perché questa è una cosa importante che i chimici devono sapere, anche se non c'è scritta sui libri. Di questa cosa qui, a livello di organica 2, nei nostri corsi, si è persa totalmente l'informazione. Nessuno fa più queste reazioni. All'organica 2 nessuno sa più niente di tutto questo. Quindi sono costretto a dire, beh, non lo sa più perché il docente non le sa, eh? Non è perché vuole risparmiare tempo. Allora, guardate che noi abbiamo risolto un sacco di problemi, perché ovviamente siamo in grado di fare ancora, se voglio, un passo avanti con le reazioni in trasferimento di fase. E cioè, anche se sono reazioni meno green di queste, ma pur sempre green per alcuni aspetti, ci sono le reazioni in trasferimento di fase solido-liquido. Noi abbiamo fatto finora degli esempi con liquido-liquido, acqua e, che ne so, cloroformio, minimizzando la quantità di cloroformio al limite. Noi possiamo utilizzare due fasi, una solida e una liquida, ottenendo dei risultati incredibili. Questi risultati incredibili ovviamente sono stati ottenuti come al solito per caso, perché metà degli anni 60 alcuni chimici stavano facendo la polimerizzazione del glicoletilenico. Facendo la polimerizzazione del glicoletilenico e alcune prove, a un certo punto vanno a estrarre con i solventi organici, come si fa normalmente, le cose per vedere i prodotti di reazione, e nel solvente organico non c'era niente. Tutto era rimasto nell'acqua. Quindi c'era della roba organica che era estremamente solubile nell'acqua. Che cos'era questa roba? Erano dei composti caratterizzati dalla presenza di tanti ossigeni, ma molecole cicliche, che avevano grande solubilità nell'acqua, soprattutto perché nell'acqua c'erano dei sali che loro criptavano. Questa criptazione era legata alla polimerizzazione, per esempio, del glicoletilenico ciclico, che dava origine a questo signore, che si chiama Crown 12-4, 12 Crown Corona 4. 12K4. Che vuol dire questo? Vuol dire che ci sono 12 atomi sostanzialmente nel ciclo a corona, di cui 4 sono ossigeni, se vogliamo dirla così. Poi ci possiamo mettere i numeri 1, 4, 7, 10 per indicare la posizione in questo contesto degli atomi di ossigeno. Il 12 corona 4, poi ce n'era un altro molto bellino che era il 18 corona 6. Sì. No. Così? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questo è il 18 Crown 6. Questi composti sono dei composti che rimanevano in acqua soprattutto perché avevano una grande solubilità nell'acqua, ma nell'acqua c'erano i sali che venivano fuori dalle idrolisi delle quelle misteriose reazioni che venivano fatte a quel tempo, quindi che ne so, il litio alluminio idruro diventava il litio più e il litio più si complessava qui, vedi, l'ottetto elettronico, il potassio si complessava qua, perché il potassio è più grosso, quindi ha bisogno di entrare in un cage, in una gabbia, in un tubo più grosso. Il sodio, anche qui, dove abbiamo messo il 12 corona 4, questo è specifico per il sodio, e il 18 corona 6 è specifico per il potassio. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che io, se ho diversi ioni, il 18 corona 6 si piglia preferenzialmente il potassio. Se poi di 18 corona 6 ce n'è tanto, allora si complesserà anche agli altri elementi. Però se ce ne metti uno a uno con il potassio, lui si piglia solo il potassio, perché il complesso fatto con il potassio è estremamente più stabile rispetto ai complessi fatti con gli altri cationi. Se io ho il potassio e ho il 12 corona 4, questo non lo guarda nemmeno in faccia, perché il potassio non c'entra dentro al 12 corona 4, mentre il sodio sì. Allora, questi composti avevano una caratteristica. È vero che sono solubili in acqua, ma sono anche solubili in solventi organici. E questo ci permetteva di fare una cosa. E la cosa che si fa mima sostanzialmente la biochimica. Ancora una volta noi cerchiamo di inconsapevolmente mimare la creazione che abbiamo intorno, senza renderci conto che sostanzialmente siamo noi i creatori dell'universo, solo che non ci ricordiamo più come abbiamo creato l'universo e quindi ci tocca fare la fatica di riscoprirlo. In questo contesto, come fa la radice di una pianta a succhiare il catione che gli serve? La radice della pianta c'ha in alcune posizioni dei composti che sono come questi, sovente si chiamano ciclodestrine. Le ciclodestrine sono dei cicli con il destrosio, sostanzialmente, che è una molecola di glucosidi, quindi 3, 4, 5, 6 glucosidi attaccati insieme pongono parte dei loro ossigeni tutti verso, diciamo, il basso, così da creare un piano in cui in basso questi ossigeni possano complessare un metallo che ci si può agganciare ed entrare dentro la ciclodestrina. Queste ciclodestrine però sono come quei vecchi otturatori delle macchine fotografiche, cioè sì, a seconda del loro equilibrio conformazionale si allarga il buco interno o si restringe, decidendo quale catione metallico si deve complessare, perché questo verrà passato sopra dall'altra parte e passerà all'interno della pianta che ci farà quello che vuole. Quindi è come una bocca che ha la pianta che, a seconda di come viene aperta, fa entrare solo quel metallo lì, con tutto quello che ci è attaccato dietro, ovviamente. Quindi, da questo punto di vista, noi non facciamo altro che imitare la natura. Beh, ma la prima cosa che si creò fu questo incredibile reagente che si chiama tuttora benzene porpora. Il benzene porpora è questa cosa qui. Noi prendiamo una provetta. Nella provetta ci mettiamo il benzene. Nel benzene ci mettiamo il permanganato, KMnO4. Sono dei cristallozzi nero-violacei che si spandono sul fondo della nostra provetta. Agiti, agiti, agiti. Hai voglia d'agitare, il permanganato non si scioglierà mai nel benzene. solubilizzerà mai nel benzene. Aggiungo l'1% di 18 corona 6, che è sensibile alla criptazione del potassio, e il benzene diventa viola. E se il benzene diventa viola, che cosa è successo? È successo che l'1% di 18 corona 6 ha criptato l'1% di potassio. Quindi tutto il potassio criptato va in soluzione benzenica, ma si porta dietro il suo controione. E il suo controione è permanganato. L'emerio 4- così è diventato solubile nel benzene. Solubile in quantità catalitica. Cioè, non poco poco. Oh, che meraviglia! Ma lo sai che io posso fare una cosa meravigliosa? Posso fare una reazione così fatta. Provetta. Benzene. Solvente. 18 corona 6. Alchene. L'alchene è il prodotto che sta nel benzene, perché ovviamente è un prodotto solubile in quel solvente. Ma io porto una quantità catalitica di permanganato nel solvente. Il permanganato sciolto nel solvente diventa, siccome lo ione K più è totalmente solvatato, lo ione MnO4- è uno ione nudo, come diceva Corey, e il meccanismo della reazione di ossidazione O meno manganese O è questo: 1, 2, 3, 4. Il risultato finale è una ciclo-reazione, se vuoi, una cicloaddizione, in cui si forma un composto ciclico che si chiama manganolo, non è colpa mia, il quale manganolo chiaramente è il prodotto di ossidazione dell'alchene. Non c'è l'acqua, rimane tutto così. Nel frattempo il 18 corona 6 torna a guardare verso il basso e scopre che c'è ancora del permanganato insolubilizzato. Lo prende e se lo porta su. Questo vuol dire che in soluzione benzenica io ho sempre una piccola quantità di permanganato, il che equivale a dire è come se io goccia a goccia lo aggiungessi dall'esterno. Ma è meglio così, perché quando io aggiungo goccia a goccia qualche cosa, non so mai se la prima goccia ha reagito. Invece il 18 corona 6 che torna giù sa esattamente che ha fatto la sua reazione, e quindi la reazione avviene nel modo migliore, non ci sarà mai un accumulo di ossidante nel benzene in questo contesto. La reazione viene fatta col benzene perché è storica. Te vuoi fare col toluene? Ma famola col toluene, facciamola con un altro solvente. Il problema non è quello del solvente. Il benzene aveva questo valore storico perché il benzene porpora nasceva in questo modo. Ma se la green chemistry ha paura di utilizzare il benzene perché il benzene fa male, io torno a dire il toluene è uguale, basta mettersi d'accordo, si usa un altro solvente. Possiamo fare queste reazioni con un sacco di solventi, perché il 18 corona 6 si solubilizza in tutti i solventi organici. Il 18 corona 6 si usa in quantità catalitiche, quindi dobbiamo ricordare che la green chemistry è quella parte di chimica che ti dice: mi usi per favore un catalizzatore in quantità catalitiche, così non, anche se si deve buttare via, se ne butta via una piccolissima quantità, se si deve buttare via. 12 corona 4, 18 corona 6, da un punto di vista di safety, come dicono gli americani, la cosa migliore potrebbe essere anche il 12 corona 4 e non il 18 corona 6, ma questo è un problema tecnico, perché il 18 corona 6 cripta bene il potassio, quindi se cripta bene il potassio è bene che tu non te lo mangi, perché se te lo mangi il cuore si ferma, ecco. Invece, magari con altri criptandi un po' meno selettivi per il potassio, però perché te lo devi mangiare? Cioè, non ha senso, non ha veramente senso. Industrialmente, grandi quantità di 18 corona 6 possono ancora essere utilizzate perché è stato trovato un metodo per recuperarle. Per recuperare il 18 corona 6, perché si è visto che il 18 corona 6 con l'aceto nitrile fa un complesso che è un cristallo solido. Allora, buttare del CH3CN nel 18 corona 6 vuol dire fare questo complesso. Questo complesso, ovviamente, solido, nell'opportuno solvente precipiterà, lo filtri, quando scaldi l'aceto nitrile viene rilasciato e il 18 corona 6 torna a essere quel solido di prima. Che te puoi riutilizzare, quindi c'è la possibilità in qualche modo di non disperderlo neanche nell'ambiente. Che cosa ci possiamo fare con queste reazioni? Dunque, innanzitutto, queste reazioni si fanno senza acqua. Ah, guarda, allora tutte le volte che io avevo delle problematiche perché avevo un gruppo che non resisteva alle condizioni troppo basiche NaOH al 20% del trasferimento di fase acqua cloroformio, potrei fare le stesse reazioni in questo ambiente. Perché? Perché questo ambiente, non avendoci l'acqua, non mi può idrolizzare nessun estere. Quindi, se io voglio fare una reazione malonica in questo ambiente, farò in questo modo. Prendo il mio malonato COO metile, voglio proprio essere a favore della mia stabilità. COO metile più sodio idruro NaH, perché io voglio che il sodio idruro mi prenda questi idrogeni acidi per fare il malonato, per fare cioè COO metile CH meno COO metile. Bene, ci ho messo il sodio 12 corona 4, 1%. Solvente lasciamo per il momento il benzene. Nell'istante in cui ci ho messo il sodio idruro, nel benzene ho una quantità catalitica di questo. Basterà aggiungere a sbroscio RX, perché tanto la reazione non è che prende il via, la reazione reagisce in modo catalitico, cioè sempre una quantità RX che reagisce, perché c'è solo una quantità catalitica di malonato di sodio in soluzione. E te mi dirai, però il sodio idruro lo togliamo, il sodio idruro lo togliamo e lo sostituiamo con l'operaio più contento, NaHCO3. Solido. Che mi frega? Esattamente. C'è una cosa importante che io devo però fargli comprendere. Ora, innanzitutto, questa reazione può anche essere abbastanza lenta. Con sodio idruro è un po' meglio, tutto lì. Però, si può scaldare un pochino, sui 30, 40, 50 gradi, non succede niente. Qui si potrebbe scaldare anche molto di più, perché non siamo più nelle condizioni di un sale d'ammonio quaternario che comunque un po' nel tempo, anche se scaldi poco, un pochino si degrada attraverso la degradazione di Hoffman. No, qui vai avanti tranquillamente, non ci sono problemi, puoi scaldare anche 200 gradi. Ma non è necessario, perché queste sono reazioni così veloci, così rapide, e facilmente controllabili, fai una cromatografia ogni tanto, ovviamente non le farai neanche sotto azoto, non serve, non, assolutamente. quello che succede è quindi potrai scaldare un pochino se usi il carbonato. Ecco, la cosa che volevo dire è questa: guarda, ci ho messo NaHCO3, non ci ho messo Na2CO3. Ce la posso anche mettere Na2CO3, no? NaOH in pasticche, ma l'NaOH in pasticche prende l'acqua, quindi bisogna pesarla rapidamente. In una reazione magari di laboratorio sei anche contento di farlo, però in un impianto, quando l'NaOH la prendi a palettate e la butti dentro il grosso del reattore, di acqua te ne prende comunque tanta. Allora, quello che si deve capire è che il 18 corona 6, il 12 corona 4, prendono solo un controione che vale meno 1, non un controione che vale meno 2. Cioè, se io ho l'Na2CO3 e ci metto 2 mol di Craon, non avrò mai un CO3 meno meno in soluzione, ci avrò sempre un NaCO3 meno. Questa è una cosa che su tanti libri non c'è scritta, però vale la pena di sottolinearlo. Quindi ve lo dico, quando dovete fare i calcoli, il numero di moli di base che ci devo mettere uguale al numero di idrogeni acidi che devo estrarre, tanto per dirla in papale papale, io ci posso mettere anche l'Na2CO3, ma lo devo contare comunque 2 volte, perché il prodotto che va in soluzione, che farà la reazione, sarà un solo sodio dei 2 atomi di sodio del carbonato. Quindi tanto vale metterci il carbonato acido, perché poi si forma l'H2CO3, cioè acqua e CO2, che mi creeranno meno problemi nella reazione e nel recupero dei prodotti, nella gestione dei prodotti, come dire, di scarto. Alla fine della reazione, se ci sono e ci saranno sempre dei solidi da filtrare, si filtrano, si toglie il benzene o quello che è al rotavapor e te c'hai il tuo prodotto finale con delle rese eccezionali. Reazione che può funzionare bene su piccolissime quantità, su grandissime quantità, tempi di reazioni ridottissimi, cioè la reazione più complicata, che può essere una variante della reazione malonica, può durare 2 ore, 3 ore, a volte si usa l'aceto nitrile caldo, per esempio, per queste reazioni, a volte. E quindi al punto di ebollizione dell'aceto nitrile, insomma, non si va più in su. Che cosa ci possiamo fare con queste reazioni, oltre che queste cose? Beh, per esempio, abbiamo già visto, no? Le reazioni di ossidazione. Reazioni di ossidazione. Allora, si può prendere un alcol e lo posso ossidare col permanganato. OH, così. Quindi col permanganato che viene portato in soluzione, quindi O meno MnO O così, quello che succede è che si forma l'addizione di acqua al doppio legame manganese-ossigeno, O manganese, quindi così, ossigeno, vediamo così, H, OH, O. In questo contesto quello che succede è che Scriviamole bene. È lo iodidruro che se ne va, quindi è questa la cosa che accade. Così, così, perché bisogna girare le frecce nel modo corretto. Così. E poi si forma HMNO3 e acqua, quindi MnO4 diventa MnO3 e io ho fatto la mia reazione. Come si può notare, ci possiamo gestire bene perché la quantità di ossidante che io metto in soluzione è una quantità precisa e soprattutto una quantità catalitica. Quindi potrei non avere tutti quei problemi che di solito si hanno quando poi devo ossidare anche questo composto carbonilico che quindi rompe la molecola, la cosa. Se io usassi il bicromato con l'acido solforico, sono costretto a togliere l'aldeide che mi si forma, se viene fuori un aldeide, perché ci sono dei problemi. Perché l'aldeide, se no, nell'ambiente di reazione si riossida facilmente ad acido. Quindi devo lavorare completamente sott'azoto. In questo contesto, queste reazioni sovente si fanno anche a temperatura ambiente, si fermano dove si devono fermare. Una reazione analoga, se io la faccio col permanganato in acqua, permanganato basico in acqua, si fa in questo modo. Prendo l'alcol, prendo il permanganato, prendo l'acqua. A volte ci devo mettere il tetraidrofurano perché se no parte delle molecole non si sciolgono nell'acqua, parte delle molecole non si sciolgono in tetraidrofurano, ci metto il permanganato e comincio a bollire. E bollo per 12 ore, più o meno. Questa reazione qui la faccio in un quarto d'ora, con molti meno rischi. Bollire per 12 ore vuol dire tenere un reattore 12 ore occupato. Bollire per 12 ore vuol dire scaldare per 12 ore. Quando scaldi usi l'energia elettrica. L'energia elettrica da noi si fa da petrolio, c'è poco da fare. Quindi tenete presente che ci sono delle incredibili possibilità qui dietro. Devo fare una reazione di riduzione. Ci sono dei composti che soffrono l'ambiente acquoso, ma perché non uso il litio alluminio idruro complessato dal 12 corona, il sodio boridruro, ancora meglio, complessato dal 12 corona 4. Il sodio mi si compressa al 12 corona 4 e il BH4 io me lo rendo solubile nel benzene. Pensa a te che cosa riesco a fare. Reazioni incredibili, perché a questo punto il BH4 è diventato un vero e proprio nucleofilo. Sapete che ci sono dei composti carbonilici e carbossilici che non hanno tanta voglia di ossidarsi, perché la reazione mai sufficientemente lodata a riduzione con il sodio boridruro prevede, o con il litio alluminio idruro, che il sodio e il litio si complessino al composto carbonilico o carbossilico, alterandone la softness. Questo produce il problema che il BH4 non c'ha più voglia di fare quello che dovrebbe normalmente fare. Se voi andate a vedere che cosa riduce il sodio boriduro, scoprite che alcune riviste dicono che gli esteri li riduce, alcune riviste dicono che non li riduce. E alcuni articoli sembra, insomma, caso per caso, perché non è vero che sul libro c'è scritto che funziona o non funziona, non è vero. Bisogna vedere caso per caso. Perché ci sono questi problemi di compressazione che sono più o meno forti a seconda del solvente che ci hai messo dentro. Qui c'hai il BH4 nudo e quindi sei sicuro che ha una capacità reattiva come nucleofilo, l'idruro, sicuramente più forte. E non ci saranno quei problemi di compressazione del controione, perché il controione è complessato col 18 corona 6 o col 12 corona 4. Quindi una reattività da provare tutte le volte che te hai qualche problema, completamente diversa. E non si distillano tutti i solventi che devi utilizzare, perché chiaramente è una reazione che ti permette di utilizzare anche un solvente, che ne so, lo vuoi fare anidro, lo passi su gel di silice, e per il 18 corona 6 va più che bene. Col sodio idruro, il tetraidrofurano, no, lo devi distillare con litio alluminio idruro, il tetraidrofurano, e quindi siamo fregati. Quindi pensa a te che meraviglia che è questa reazione. Che ci ha dato anche la possibilità in qualche modo di ridare un'occhiata alla sostituzione nucleofila aromatica, tappando un buco su quella che è sicuramente una vostra lacuna, perché voi non avete la più pallida idea del perché certe cose andavano in quel modo. Bueno, è fondamentale questa cosa qui, perché noi siamo fondamentalmente a quello che sarebbe stato il quarto anno del vecchio corso di chimica. Quindi quando avete fatto già chimica organica 1, chimica organica 2, chimica organica 3, e qui siamo a chimica organica 4. Quindi vi dovete rendere conto di un certo numero di cosette. Qui possiamo aprire un... Io dico una cosa, voglio dire un'altra cosa, proprio spassionatamente. Quando voi cominciate a fare le reazioni in trasferimento di fase, scoprite che il 90% di tutte le reazioni possono essere fatte in trasferimento di fase. Abbandonate tutti gli altri sistemi perché non vi piacciono più. Perché come viene bene il trasferimento di fase, tutto in trasferimento di fase fate. Tutto. Un po' perché... è veramente facile, un po' perché risparmiate un sacco di tempo nel montaggio delle apparecchiature. Qui basta un becker con un magnetino che gira. Risparmiate in tutti quelli che sono i frammenti del momento creativo organico, perfino nel lavaggio della vetreria, che diventa veramente estremamente facile. E una volta, insomma, noi lavevamo la vetreria, noi abbiamo sempre lavato la nostra vetreria. Ai miei tempi io usavo 5 litri di etere, 5 di acetone solo per lavare la vetreria di un giorno. Quindi tenete presente che i vantaggi sono incommensurabili. Uno dei sali d'ammonio più interessanti è il fluoruro di trietilbenzilammonio, che si fa dal bromuro di trietilbenzilammonio con NaF. Il fluoro si attacca all'azoto, non lo molla più, chiaramente, precipita, perché questo sovente non è solubile nei solventi organici in cui si prepara, e quindi quello comunque è una fonte di F-. Una vera fonte di F- che può essere solubilizzata, per esempio, in alcuni solventi in cui i fluoruri normalmente non si solubilizzano. L'NaF nell'acqua non si scioglie. Non so se l'avete mai provato. Sì, il cloruro di sodio sì, ma l'NaF no, perché il fluoro è talmente piccolo che la distanza tra il sodio e il fluoro è così piccola che l'acqua non riesce a entrarci nel mezzo per fare la coppia ionica. Il fluoro di sodio nell'acqua non si scioglie, è un sasso. Oppure sciogliere il fluoro di sodio nel benzene. Te prendi il fluoro di sodio, ci metti 12 con una 4 e c'hai l'F- in benzene. E quindi puoi fare le reazioni con questo F- nucleofilico. E siccome i fluoruri si fanno per sostituzione nucleofila dei cloruri, per esempio, o dei tosilati, è un sistema pulitissimo per ottenere i fluoruri in un corpo solo, senza avere drastiche condizioni di reazioni. Se te dovevi fare una reazione di sostituzione nucleofila cloruro-fluoruro, avresti dovuto usare il dimetilsolfossido come solvente o la NN dimetilformammide, che avresti dovuto distillare. C'hai presente come si distilla la NN dimetilformammide? O come si distilla il dimetilsolfossido? Il dimetilsolfossido si distilla su ossido di calcio e la NN dimetilformammide su sodio ammide. Quindi, e già si rompe, si distrugge parte del solvente in queste condizioni drastiche che te stai tentando di ottenere purificato. Tutto sotto azoto, perché tutti i solventi di questo tipo sono estremamente idrofili, come vedono una molecola d'acqua se la pigliano. Ecco. Beh, e ora possiamo cominciare un altro aspetto, un altro capitolo. Un altro capitolo che ci porta a disquisire sulla i solventi polifluorurati. Allora, I solventi polifluorurati sono un'acquisizione abbastanza recente della chimica organica. Nel e-learning che ho messo a disposizione c'è in particolare un paio di testi di libri che parlano dei solventi fluorurati con tutte le tabelle di tutti i principali solventi fluorurati commerciali, quindi utilizzabili, perché si vendono nello stesso istante in cui si possono preparare in grande quantità, perché c'è un mercato. E il mercato a livello industriale è diventato e sta diventando sempre più importante. Perché è vero che il solvente fluorurato come primo investimento ti può costare di più. L'esano fluorurato costa di più dell'esano. È vero, però non lo butti via. Lo riutilizzi sempre. Almeno 200 volte, perché poi a forza di utilizzarlo un po' ti si consuma, ti si perde in qua e in là e allora ogni tanto un po' ce lo devi rimettere. Però il guadagno che si fa è incredibile. Innanzitutto questi composti hanno una caratteristica incredibile. Se ci butti un fiammifero dentro non pigliano fuoco. E questo nell'industria non è da trascurare. La loro tensione di vapore è molto più bassa rispetto a una tensione di vapore di un solvente normale, quindi ne respiri meno. Punto di fiamma, quindi non ne parliamo. La densità è un po' più elevata della densità sovente di altri composti, non sempre, bisogna vedere che cosa abbiamo fra le mani, ma la densità la sappiamo gestire con il parametro calore. La densità dei solventi, come di tutte le molecole, cambia scaldando. Scaldando diminuisce. Vediamo che qui scaldare sarà una cosa importante, ma si scalda poco. E quindi tutto sommato è come se lavorassimo praticamente quasi a temperatura ambiente. Come nascono i polimeri, questi solventi fluorurati? Nascono da un punto di vista storico. E il problema risale al buco dell'ozono. Il buco dell'ozono, voi lo sapete, c'erano i composti polifluorochlorocarburi che reagivano con l'ozono, come abbiamo fatto vedere le prime volte che ci siamo visti, non era tanto il legame fluoro-carbonio, ma era il legame cloro-carbonio che dava origine, era una fonte di Cl punto. Il Cl punto reagisce con l'O3 per dare ClO punto più O2, e qui già il primo problema è che ho fatto fuori una molecola di O3, ma questo reagisce ancora con O3 per fare ancora O2 e altri sottoprodotti che daranno origine ovviamente due molecole di O2 e un Cl punto che riparte in circolo e ammazzerà quindi un solo Cl punto, guardate quante molecole di O3. Bene, l'idea è stata quella di sostituire questi polifluorochlorocarburi con i polifluorocarburi, perché il legame carbonio-fluoro e il legame F punto non lo dà, perché il legame carbonio-fluoro è molto forte, F punto è molto reattivo e quindi non si rompe il legame carbonio-fluoro, così come si poteva rompere negli strati alti della stratosfera con i raggi UV. Però ci si rese conto subito di un'altra cosa. I polifluorocarburi avevano delle particolarità interessanti. Perché? Innanzitutto costavano abbastanza poco. Prendi un idrocarburo, ci metti il fluoro dentro, per fare la fluorurazione devi stare anche attento a moderare la temperatura, perché la reazione è quasi esplosiva. cioè va da sé, devi solo raffreddare. Quindi i polifluorocarburi si ottenevano bene, fin troppo bene. Almeno quelli della serie alifatica. Gli americani, che nel frattempo negli ultimi 20 anni si sono occupati di militarizzare tutte le loro ricerche, hanno scoperto che i polifluorocarburi potevano essere utilizzati come sostitutivi del sangue umano. Cioè, questi composti assorbono, per le loro caratteristiche che vedremo fra un attimo, i gas, quindi l'ossido di carbonio, la CO2, l'azoto, l'ossigeno in particolare. Quindi, molto meglio, se così si può dire, di un normale circuito emoglobinico in cui l'ossigeno viene portato poverino da quei 4-5 atomi, grammi di ferro che abbiamo nel corpo, molto di più. E in parole povere, se io prendo un marine, gli tolgo le bombole, gli tolgo il sangue, gli metto un polimero fluorurato, gli do un calcio nel culo con una bomba in mano e gli dico di andare a mettere la bomba sotto la nave nemica, lui nuotando sott'acqua non fa le bolle. Non facendo le bolle, perché non ha le bombole, perché respira con il suo sangue, non viene visto dai militari nemici. Può mettere la bomba sotto la nave e tornarsene indietro, gli verrà tolto il sangue finto, gli viene rimesso il suo sangue vero, un colpo di tosse e via, pronto per la prossima missione. Cosa hanno fatto gli americani? Hanno sviluppato questa cosa, non per curare i pazienti quando non c'è il sangue, le sacche di sangue, le trasfusioni, se ne fottono gli americani, ma mettere le bombe sotto una nave nemica, questo gli piaceva. Ed è questo il motivo del perché i polimeri fluorurati sono venuti fuori alla grande. Poi chiaramente si è scoperto tutta un'altra serie di proprietà, e cioè che potevano essere utilizzati come solventi, ma questo dopo, in chimica organica. Allora, questi solventi hanno delle caratteristiche eccezionali. Uno dei primi storicamente è questo, CF3 benzene, cioè il benzene trifluoro benzile. Un altro è questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ossigeno, scriviamolo così, allora, fluoro, no, qui no, qui CH2 e qui CH2. Questo, per esempio, composto qui con tutti gli atomi di fluoro, dove ho segnato le stanghette, è un agente fluorescente, mi sembra che si chiami l'F626, che è sostanzialmente quello che viene spalmato sulle lastrine della thin layer chromatography, quando si mettono sotto la lampada UV, che viene fuori quel colore verde-giallino, ecco, è questo signore qui che glielo dà. Ma al di là di queste banalità, un altro composto che venne sintetizzato è la decalina, polifluorodecalina. Possiamo scriverla così. Questi solventi avevano delle caratteristiche che sicuramente bisogna prendere in considerazione. Non sono solubili nei loro corrispondenti solventi senza fluoro. Cioè, l'esano e l'esafluoresano, uno galleggia sopra l'altro. Bene, però va detta una cosa. A temperatura ambiente, alcani, alcheni, alchini, alcoli, chetoni, sono dal 90 al 98% solubili nei comuni solventi, il 2, 3, 5% solubili nei solventi fluorurati corrispondenti. Quindi, se te c'hai un becher in cui hai due solventi, il primo fluorurato, il primo normale, ci scrivo H, e il secondo fluorurato, normalmente i solventi, la roba organica, i reagenti, sono solubili in quello normale, non nel fluorurato. Ma nel fluorurato succede una cosa quando io scaldo. Quando io scaldo, poco i due solventi diventano solubili. E diventando solubili, portano a contatto i rispettivi reagenti, che sono uno nel primo solvente, l'altro nel secondo fluorurato, a contatto, permettendo che avvenga la reazione. E dopo che succede? Raffreddo. Quando ho raffreddato, i due solventi smistano e io vado a prendere il mio prodotto di reazione nel solvente normale, quello non fluorurato, mentre riciclerò il solvente fluorurato. Perché questo accade? Questa è una cosa, secondo me, carina. Accade tutto ciò perché il fluoro, come avete visto nelle sostituzioni nucleofile, e ora vi accorgete che io sì, ho aperto quella parentesi sulla sostituzione nucleofila aromatica, ma anche perché volevo arrivare qui. Noi abbiamo l'etano fluorurato. Fatemelo scrivere così. Bene, l'etano fluorurato è molto rigido a temperatura ambiente, non ha nessuna voglia di girare attorno al legame semplice carbonio-carbonio, CF3-CF3, la molecola, cioè conformazionalmente è molto rigido. Ma come mai? Gli atomi di fluoro sono anche più piccoli degli atomi, cioè, comunque hanno lo stesso ingombro sterico sostanzialmente di un atomo di idrogeno. Sì, sono un pochino più grandi, ma di poco. Il problema è che ci sono delle forti interazioni orbitali pieni, orbitali vuoti. E cioè, quando io ho una situazione del genere, carbonio, carbonio, fluoro, qui ho un orbitale vuoto di antilegame, qui ho un orbitale vuoto di antilegame. È chiaro che lui agisce su questo ciucciando gli elettroni di qua e lui agisce su questo ciucciando gli elettroni di là. Un fortissimo effetto anomerico questa volta, proprio fatto con quegli atomi di fluoro che avevamo visto nella sostituzione nucleofila, per questa ragione essere quelli che come gruppi nucleofughi sarebbero stati i migliori gruppi uscenti. Come lo fa il fluoro questa cosa qui? Non lo fa nessuno. Tenete presente del perché si studiano i fluorozuccheri, cioè quei glucosidi che al posto dell'OH sull'atomo di carbonio non omerico hanno un atomo di fluoro. Ma che strano, perché l'effetto anomerico del fluoro è ancora più forte e si possono studiare quelle molecole da un punto di vista conformazionale, perché con un fluoro la molecola è bloccata. Bene. Questo prevede che l'epsilon di questi solventi sia bassissimo, perché come dire, l'equilibrio conformazionale prevede sostanzialmente un solo conformero, ma quando scaldi, ecco che la barriera non è grandissima, un pochino qui si ha libertà conformazionale. Lui diventa come un esano normale, diventa come un pentano normale, diventa come un eptano normale e quindi diventa compatibile come epsilon, valore di epsilon, con l'altro suo compagno solvente senza gli atomi di fluoro. i due diventano simili e si solvatano uno nell'altro. A caldo, quindi, questi prodotti sono solubili, a freddo no. A freddo le molecole organiche sono sovente solubili solamente nel solvente normale, non fluorurato, a caldo sono solubili in tutti e due. Invece nel solvente fluorurato sono solubili tutti i gas, nel solvente fluorurato sono solubili tutti i composti inorganici, quindi tutti i catalizzatori, tutti gli alogenuri alchimici, i sali, i direttivi di Grignard, RMGX, e tutti gli acidi di Lewis. E allora noi possiamo modulare la presenza di due partner in una reazione, uno che stia in un solvente, uno che stia nell'altro solvente, scaldo, avviene la reazione, raffreddo, recupero i prodotti. Sostanzialmente funziona così. Tutto è legato quindi alla variazione del momento dipolare di queste molecole, che variano fortemente con il calore. Chi meglio di legami carbonio-fluoro può farlo? Di tutte le molecole organiche che conosciamo su questo pianeta, solo queste. Allora, una tabellina che è secondo me interessante vedere è la seguente, che ovviamente, siccome a memoria non ce la ricordiamo, la dobbiamo scrivere. Prendiamo CF3, C6F11, cioè il cicloesano con un gruppo CH3, tutto fluorurato. Beh, questo lo mettiamo insieme a diversi solventi, al CCl4, per esempio, al CHCl3. Al C6H6, al benzene, al toluene, al CH3, C6H5, al clorobenzene. E qui ci scriviamo, ovviamente, che a temperatura ambiente questi non sono miscibili tra di loro. Ma quando noi scaldiamo questo a 26 gradi, questo a 50 gradi, questo a 85 gradi, questo a 89 gradi e questo a 127 gradi, ecco che le due fasi diventano miscibili tra di loro, cioè abbiamo una fase sola. Guardate che la scelta della coppia di solventi ci permette di stabilire quale sarà il volano termico della nostra reazione. Sostanzialmente funziona così. I parametri fondamentali di questa coppia di solventi sono quindi la polarità da una parte del solvente fluorurato e dall'altra parte la sua peculiarità è la capacità di sciogliere, di dissolvere i gas e i reattivi in qualche modo inorganici. A questo punto noi facciamo una reazione in tre fasi. La prima, mescoliamo tutto insieme e teniamo tutto fermo. Diamo il via nel Becher all'agitazione. Il Becher, che è un reattore all'interno della chimica industriale, grande agitazione, scaldiamo alla temperatura giusta, le due fasi si mescolano, i reagenti vengono a contatto, avviene la reazione, fase omogenea, si raffredda, le due fasi si separano, recupero il solvente polifluorurato che mi servirà per la prossima volta, prendo il solvente normale che contiene la mia reazione e purifico i prodotti. Praticamente non butto via niente. Vediamo qualche reazione. Per esempio, facciamo la tanto discussa già un paio di volte oxosintesi. L'oxosintesi era questa, RCH, doppio legame, CH2. Che cosa ci voleva? Dunque ci voleva CO, ci voleva H2, ci voleva un catalizzatore metallico. Queste erano le cose che... Allora, vediamo un po'. Prendiamo l'ossosintesi. mettiamoci due solventi, uno che potrebbe essere il toluene e l'altro un solvente che potrebbe essere il toluene fluorurato, quindi toluene di sopra e sotto CF3FFFFF. Che cosa succederà? Succederà che il mio alchene è solubile qua, i gas sono solubili qua, il catalizzatore metallico, metallo, è solubile qui dentro. Bene, scaldo, succede qualcosa che è la reazione con il meccanismo che abbiamo visto le altre volte, raffreddo, si ridividono i due solventi, qui c'ho sempre il CF3 polifluorurato e qui sopra c'ho il toluene, qui dentro avrò RCH2CH2CHO, cioè il prodotto di reazione. Qui ci avrò, beh, il mio catalizzatore, che ne so, un po' di idrogeno che è rimasto, un po' di CO che è rimasto. Questo, con un imbuto gocciolatore a livello industriale, apro come si dice, il rubinetto dell'imbuto gocciolatore e mi butto questa roba direttamente dentro la prossima carica che devo fare con il mio reattore. Non devo purificare niente, se è rimasto un po' di H2, se è rimasto un po' di CO, se è rimasto un po' di questo, che, perché 2, 3, 4% rimane sempre qui dentro, chi se ne frega, lo piglierò la prossima volta. E qui porto via il mio prodotto. In questo contesto qui ricarico e vado avanti così. Come vedete, posso utilizzare lo stesso solvente, ora non vi dico un milione di volte, ma un bel po' di volte, quindi il costo iniziale del comprare il solvente fluorato viene fortemente abbattuto da tutta un'altra serie di spese che io non avrò, perché qui chiaramente ci sarà un rotavapore industriale che mi porterà via il mio prodotto, mi prenderà il solvente che è il toluene e me lo ributterà qua dentro. Quindi, come vedete, io utilizzo sempre gli stessi solventi, non butto via nulla, ma soprattutto questo è molto facile recuperarlo, non si butta via nulla. E non devo fare neanche una grande purificazione, perché se un po' di prodotto fluorurato mi finisce nel solvente normale o viceversa, chi se ne frega? Tanto devono rientrare tutti in circolo nello stesso modo, devono essere messi in contatto tra di loro. Quindi va alla grande questa cosa. Posso fare un altro tipo di reazione, per esempio una reazione di riduzione. Queste delle reazioni catalitiche sono meravigliose. Allora, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Questo voglio ottenere la reazione di riduzione di un triplo legame a doppio legame. Cosa si deve usare? L'idrogeno e il palladio di Lindlar. Benissimo, allora prendo doppio solvente, metto nella parte di sopra il solvente fluorurato, scusate, sotto il solvente fluorurato, ciclesano fluorurato, sopra ci metto il ciclesano, per esempio, ma non è detto che debbano essere per forza uguali, basta che non siano miscibili. Cosa succede? Che questo all'inizio sarà così, di sotto c'è l'idrogeno, c'è anche il palladio come catalizzatore e c'è il solvente fluorurato. Scaldo, succedono i miracoli qui nel mezzo, alla fine io ottengo sopra il mio prodotto, sotto il catalizzatore, forse ci sarà rimasto un po' di idrogeno, forse lo recupero e lo ributto qua. Il catalizzatore che è il metallo e il palladio zero, quello che è. Facile. Queste reazioni avvengono in poco tempo. Notate una cosa strana, che però è molto interessante, non ho usato l'autoclave. Ho usato l'idrogeno e il palladio. Non ho usato la bombola di idrogeno, ho semplicemente saturato con l'opportuno gas e il mio solvente. Questo può essere estremamente efficace anche in laboratorio dove l'utilizzo delle bombole è meglio no. Una volta si usavano le bombole a 250 atmosfere, noi ce le avevamo attaccate al banco e sì, le abbiamo sempre utilizzate senza problematiche, perché noi sapevamo fare. Oggi che non si sa più fare, e allora bisogna che ci siano delle norme precise, non tanto per la sicurezza, quanto per la sicurezza degli imbecilli, perché solo l'imbecille si fa male, l'altro no. E non c'è niente da fare, non si può, no, ma ha avuto una distrazione, è un imbecille. Perché l'imbecille ha le distrazioni, il chimico organico no. Ti immagini che fai il chirurgo e cioè, ho avuto una distrazione. No, non la devi avere la distrazione, così il chimico non ce la deve avere. La differenza è che il chirurgo ammazza un altro, il chimico fa del male a se stesso sostanzialmente. Quindi tutte queste cose sono venute fuori in qualche modo, come ho già detto le prime volte che ci siamo visti, soprattutto per evitare di farsi del male, quando il farsi del male era diventato estremamente probabile a causa del fatto che i chimici diventavano sempre più stupidi. Ecco, la reazione di Diels-Alder. La reazione di Diels-Alder, cioè questa qua per esempio, prendiamole dalla letteratura queste reazioni. Sì, questo. Con il prodotto fatto così, diene e dienofilo, bisogna che faccio il dienofilo però, perché se no non mi viene, ecco, quello che succede è questa reazione. Così, sostanzialmente, il catalizzatore metallo in transizione, vediamo, non voglio entrare nel contesto di che metallo in transizione si usa per le reazioni di Diels-Alder, perché non è tanto questa la cosa che ci interessa, è il tipo di reazione, come al solito, doppia cosa, solvente fluorurato. Sopra si usa, mi sembra, l'1,2 di cloroetano, sotto il TBF, il BTF, che abbiamo già visto essere il CF3-benzene. Questi composti, cioè il diene e il dienofilo, cascano tutti qua dentro. Qui ci metti il metallo di transizione, sovente di transizione, che serve per fare la reazione, e scaldi. Ora, questa reazione, che ovviamente darà origine a una fase intermedia in cui succede il miracolo, e ad una fase finale dove qui c'hai il prodotto di reazione e qui sotto c'hai sempre il catalizzatore con il solvente che ricicli, due parole sul banalissime sul metallo, o comunque sul catalizzatore della reazione di Diels-Alder. La reazione di Diels-Alder è una reazione che avviene in tanti modi, o catalizzata dalla luce, o catalizzata dal calore, con stereochimiche differenti, secondo le regole di Woodward e Hoffman. Non ci interessa in questa sede andare a vedere cosa succede. Ma dove il calore non c'è, queste molecole si mettono insieme se c'è un catalizzatore. Cosa fa il catalizzatore? Il catalizzatore è sovente un metallo che ha degli orbitali vuoti a disposizione per complessare il diene e il dienofilo. La traccia è la seguente: il metallo avrà un legante che sistemerà in questo modo e l'altro legante doppio che sistemerà in questo modo. I due leganti, il legante doppio, cioè bidentato, come si dice in chimica generale, che è il diene, e il dienofilo, che è un legante monodentato, si troveranno a guardarsi in faccia sullo stesso piano. Non solo questo accade, quindi si trovano gli orbitali vuoti e pieni di tizio e caio, pronti per poter reagire, perché quello che sta per accadere è questa interazione qua, per fare il modello a sé, cioè il ciclo esene corrispondente. Quindi il metallo prende questi due signori e li mette insieme, dice guardatevi tra di voi, ma il metallo fa un'altra cosa. Se il DNA e il dinucleo non hanno la stessa softness, il metallo equalizza la grandezza degli orbitali, del DNA e del dinucleo, orbitali pieni, orbitali vuoti, in modo che essi abbiano la stessa softness. Nell'istante in cui hanno la stessa softness, i due contendenti hanno sostanzialmente la stessa entropia, e nell'istante in cui hanno la stessa o simile entropia, reagiscono. Per una legge degli amorosi sensi di Goethe, si agganciano insieme, se no non si guardano neanche nelle palle degli occhi. Te lo puoi fare questo con la temperatura, perché la temperatura fa un sacco di cose, quindi gonfia e stringe gli orbitali, man mano che le molecole oscillano e cambiano la lunghezza del legame, l'orbitale cambia di softness, ovviamente. Cosa fai qui invece di scaldare con la temperatura e lasciare tutto al caso, cioè al numero di urti efficaci? Speriamo che le molecole si ammazzino tra di loro, prima o poi qualcuno reagirà nel modo nel contesto giusto. No, senza dire di temperatura, prendiamo il metallo che creerà per benino questi due signori, li metterà insieme in modo che questi reagiscano. Quindi in questo corso noi non ci interessa parlare del metallo, ci interessa dire che deve esserci un metallo che ha quelle caratteristiche lì, cioè deve avere degli orbitali pieni e vuoti capaci di fare questo giochino. Con questo criterio si sceglie il metallo che catalizzerà lo stato di transizione di una reazione di Diels-Alder. Non a caso, proviamo a buttarci questo e vedere se funziona, come faceva qualcuno qui dentro. Perché ci possiamo passare millenni, prima come la scoperta del transistor. Millenni ci potevamo passare prima di drogare con la giusta quantità il metallo che avrebbe dovuto servire da transistor. Perché se la drogatura del metallo non è quella giusta, ce ne metti un po' di più, un po' di meno con l'altro metallo, e il transistor non funziona. Quindi o hanno avuto una botta di culo chi ha inventato il transistor, oppure qualcuno gli ha detto come si fa, oppure non lo so, perché anche le botte di culo in scienza ci sono. Bene, allora questa è una cosa importante, perché la reazione di Diels-Alder anche questa prevederà autoclave. L'autoclave prevede tutta una serie di problematiche sulla sicurezza, perché sulle autoclavi si lavora solitamente con le alte pressioni, e quindi evitiamo le alte pressioni con questo tipo di approccio, che mi sembra un approccio estremamente importante. Ci possiamo fare le ossidazioni, e ovviamente certo che ci possiamo fare le ossidazioni, un po' come abbiamo fatto nel trasferimento di fase, perché questo è un po', se volete, un trasferimento liquido-liquido, dove il trasferimento avviene non perché c'è un catalizzatore che porta una cosa dal piano basso al piano alto della reazione, ma perché la temperatura prevede che questo accada. La temperatura fa l'ascensore. Quindi, se io voglio fare una reazione di ossidazione, di un alchene a un ossirano, l'ossirano corrispondente, io posso usare diversi catalizzatori. Uno dei catalizzatori che si può utilizzare, per esempio, è l'ossido di platino. L'ossido di platino libera platino e l'ossigeno del platino si va ad attaccare al doppio legame carbonio-carbonio. Guardando questa reazione, a me viene istintivo pensare sostanzialmente che Perché si usa l'ossido di platino? Non si potrebbe usare l'ossido di sodio? Ma al di là della battuta, e l'ossido di platino è soft, è come l'ossido di osmio, che è soft. Non so se ci avete mai pensato. Nei catalizzatori, che servono per ossidare i doppi legami carbonio-carbonio, questo è soft, quindi ci vogliono delle cose soft, per cui uso il platino, non posso usare l'ossido di nichel, che costerebbe anche forse un po' meno, però sostanzialmente il nichel non ha quella hardness corretta e quindi il platino può essere utilizzato, non solo, ma le reazioni con l'ossido di platino si possono fare addirittura anche in acqua. Nichel, palladio, platino. Il platino sta sotto nel decimo gruppo della tabella periodica degli elementi, è il più grosso di tutti, è il più soft di tutti. Il platino lavora nell'acqua. Il palladio poco, il nichel per niente. O quasi per niente, insomma. Questa reazione noi la possiamo fare in queste condizioni. Metteremo il solvente fluorurato, il solvente non fluorurato, l'ossido di platino va sicuramente nel solvente fluorurato, sarà lui che cede l'ossigeno e le reazioni vanno come devono andare. Che ne so, ho un alcol e voglio fare una reazione di ossidazione a chetone o ad aldeide, che sono le reazioni più critiche, come al solito. In questo contesto posso usare MnO2. Fatemelo scrivere così, l'MnO2. Quello che succede nella reazione è che l'MnO2, solubilizzato in qualche modo nel liquido fluorurato, agirà sul manganese, vedete? Possiamo scriverlo così, che poi ovviamente questo è un modo di scrivere questo tipo di interazione. Aspetta che ho sbagliato, perché se non ci metto il manganese, sì, devo fare così, ecco, così, questa è quella, la vera cosa che accade. Chiaramente questo signore qui sta qui, e questo idrogeno, eccolo qui, questo idrogeno sarà quello che viene qui, quello che viene qui, quello che viene qui. Quindi alla fine io ci avrò, spostando tutto quello che devo spostare, il doppio legame carbonio-ossigeno che si è ottenuto per la cessione di un idruro che si è staccato da quello che una volta era l'alcol. Ecco, metto un H- sul carbonile e ottengo l'alcol. Riduzione. Tolgo un H- dall'alcol, ottengo il carbonile. Per questo il corretto modo di girare le frecce è l'H- che si stacca. Lo dico perché sui libri c'è scritto a volte il contrario, ma non è corretto. Sì, il risultato finale sia sempre lo stesso, però non è corretto. Bene, in questo contesto siamo riusciti a usare l'MnO2. L'MnO2 in queste condizioni non c'è l'acqua, quindi non ho problemi di acidità e di basicità per quanto riguarda l'equazione di Nernst e il semipotenziale, che è legato all'acqua sostanzialmente, perché è legato all'acidità, e siccome il potenziale delle semireazioni con manganese, con il cromo, con quello che ti pare, è legato al pH, qui il pH non se ne può parlare, sei sicuro di fermarti al primo composto, cioè al composto carbonilico, poi avanti non ci vai. Cioè, anche se scaldi, queste reazioni sono fortemente legate alle condizioni di reazione e ti permettono di fermarti lì. Sono reazioni quindi che hanno un grosso valore aggiunto, sostanzialmente. Ce ne possiamo immaginare un'altra, facciamo solamente questa, poi lo finiamo semmai l'argomento la prossima volta. Però questo è interessante. Guardate questa molecola qua, CH2OR. Questa, se la tratto con palladio su carbone, che ovviamente andrà nella fase fluorurata, io riesco a trasformare questo composto in vinilete in un colpo solo. In questa reazione che faccio in una bifase che poi diventa una fase sola quando scaldo, io ho fatto quello che so fare anche in acqua. Ma il problema è che in acqua, come il vinilete si forma, si sfa, si distrugge, perché come vede la traccia di acqua, giustamente, e un acido, che potrebbe essere addirittura l'acidità del vetro in alcuni casi, ecco che il vinilete dà origine al composto carbonilico e all'alcol che lo hanno generato. In questo contesto io riesco a ottenere un vinilete che non ci dimentichiamo mai di ricordarlo, è un prodotto che mima un composto carbonilico protetto senza che questo si autodistrugga da solo e senza utilizzare la stessa reazione che noi dovremmo fare non in acqua, perché se la faccio non in acqua qui ci arrivo, ma per fare questa cosa qui mi ci vogliono delle condizioni molto particolari, mi ci vuole un catalizzatore che mi dia un complesso eta-3 allilico oppure un idruro, quindi che ne so, un nichel eta-3 allile o un nichel idruro, che con due meccanismi diversi mi faccia questa cosa, quindi meccanismi sofisticati che prevedono l'uso del tetraidrofurano, per esempio, solvente anidro distillato prima su litio alluminio idruro e poi su sodio, perché la quantità catalitica di nichel è catalitica, come quella vede una molecola di ossigeno si sputtana e la reazione non ti va più avanti. Qui non abbiamo bisogno di questo problema. E non abbiamo bisogno dell'acqua, siamo riusciti a ottenere, cioè a fare una reazione complicata togliendo l'acqua e usando il palladio, che è la cosa più semplice che c'è. Quindi chiaramente grande valore aggiunto in questa reazione, che è una reazione di trasposizione, quindi una reazione green, come tutte le reazioni di trasposizione, l'impatto chimico sull'atomo di carbonio è interessantissimo, perché non si butta via nulla in questa molecola. Non ci sono sottoprodotti e la reazione avviene nel giro di 5 minuti. Scaldi a 40, 50, 60 gradi, i due solventi si mettono insieme, 5 minuti, raffreddi e il tuo prodotto è fatto. Per controllare la reazione, ricordatevi uno dei 12 punti della Green Chemistry, riuscire a controllare bene le reazioni. Le reazioni che si controllano meglio durante lo svolgersi delle operazioni sono quelle migliori. Qui metti una siringa dentro la reazione, tiri su, metti nel cromatografo e guardi cosa succede. E sicuramente avrai il risultato che ti attendi. Vedrai i due solventi e poi vedrai quanto anilietere e quanto vinilietere c'hai. Il palladio su carbone, che è un catalizzatore, manco lo vedi. Se vuoi fare proprio una cosa meravigliosa, filtri con un pre-filtrino in cromatografia per evitare di intasare, ovviamente, di sporcare in qualche modo l'iniettore, e comunque sei a posto. Non è questo il problema che ci si può porre. Ok? Bene, per ora ci fermiamo qui.